C'è il primo puntino più lo 0, il secondo puntino, quindi risulta su un MB più 5 o più 4 a 3, a 3 a 4. Guarda, aspetta un attimino, vedete, sta fischiando, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. Così è abbassato. Ho messo al massimo il microfono, guarda se va bene. Così va bene, vai Massimiliano. Sì, da me è perfetto lo stesso, non fischia per nulla. La radio è forte già. Oh, guarda, adesso di nuovo fischiando. Non capisco, aspetta. Così, dovrei usarlo così per non fischiare. Usalo così, usavo di richiara già. Poi ricordati che è di quello che abbiamo parlato, a prescindere. Ok, devi fare tutto quel lavoro là, quindi può darsi pure che ci sia di mezzo sempre quel problema là. Una volta che poi cambi il cavo e metti tutto a posto, vedrai non ti brucia più. Sono dato il tabù di antenna, amiche, adesso l'ho regolato bene, va bene adesso. Alla grande. Adesso non lo sta più facendo. Adesso provo di nuovo a aumentare il mic. Vediamo qui. Ce l'ho fatto. Vedi questo qui, lo devo tenere a metà, dai, capito. Così la radio com'è? E allora forse ho trovato la regolazione, allora, così lo devo tenere, dai. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Dai, io vado a mangiare, dai. Vi ascolto che sono appena arrivato a casa. Ehi Anto, ciao. Passatoci al bar. Sì, ho preso cosa? Un bitter, ho già via canna di bitter. Con l'arancio. E l'aria c'era. E via. Gappa, non ho detto niente. Va bene, vai a Magnato, vai. Vai Massimi. Ehi. Oh già, tu c'hai quella farina scorrevole, no? In quella cosa. Prova a metterlo lì su e a spostarlo dalla radio, giusto una prova. Non ho capito, Massimiliano. Ho detto che tu hai quella farina scorrevole, giusto, dentro quel mobile. Prova a metterlo davanti alla radio e lo metti su quella farina lì, lo sposti un po' dalla radio, a favore. Prova, è la stessa cosa. Ma fa lo stesso? Tappa, sì, lo fa. Abbassalo un altro pelino, amiche. Guarda. Stai fischiando, prova. Adesso no, vai. Ma non stai uscendo il radio adesso, già. Guarda così. Ecco, così è buona, va bene. E non lo posso saltare di più, ma è strano che su 10 lo fa nel canale, cazzo buio, se vuoi intendi macchino. Già, no, questo non lo so, Io quello lo usavo da farne, in qualsiasi posizione che tengo, nel 10, nel 20, non veniva problema. E si conferma. Basta che non sia l'antenna, che sta rompendo le balle ancora. Tu ma lo sai cosa fai? Stacca il PL e prova a appoggiare il palo centrale su qualche lanierino di una radio così, e vedi un po' se fa la scintillina. Prova a scaricare nel caricare il tuo staff. Però io ti ho mandato su WhatsApp ieri, adesso le cose, ieri o avanti, ti ho mandato un commutatore di antenna già, 32 euro, della Daiwa. E già se lo compareggia, ma ragazzi se lo compareggia è un commutatore, vedete quando finisce di fare i lavori si occupareggia. E poi vedi che impianto cresce lì. Che cosa te? Avete parlato in due, ma di compreso in onda, che cosa? Che quello è a due scatti, io c'ho 5 radio da commutare. Te ne bigli due? Già, cosa vuoi ti dica? Già, io ce ne ho due accoppiati, tu non ti preoccupare, fai come ti ho detto io e fai quello che abbiamo detto, affitti dinni, ma non vi bissà. Poi già te lo dico io, già devi fare. Ho ti mando una foto, vedete. Anch'io ne ho preso due, per non prenderne uno a 5. Ne ho preso due, praticamente non posso usare una linea, ma li ho accoppiati con l'adattatore che c'è, maschio, 259. E vedi che c'è impianto metti di ghio. Vabbè, ma comunque ci sono i commutatori a 5. Lo puoi prendere anche a 4, già. È una radio che non usi quasi mai, te la hai trattati col PL. E io non faccio così. non mi uccidete. Io faccio così, Gianni, non ti stiamo uccidendo, stiamo solo dando un consiglio. Io faccio così, io ce l'ho a 3 e uso le radio primarie 2 2 7 5 7 4, la Midland, il Galaxy e l'Inuit, basta. L'altra antenna è diretta sul K, anzi va K9N, quindi povero Nicola, se non mi uccidete. Usa WhatsApp, non di nuda in occhi. Ho detto, non ve lo dico se non mi uccidete. Voglio sapere qua, non usare WhatsApp perché a base c'è una bomba. Oh, non ve lo dico perché se non mi uccidete. Cosa ho fatto? Secondo me c'aveva un baracchino in ascolto sul 10. Giusto, hai indovinato Marco, c'avevo il 3009 acceso senza rendermene conto che era acceso perché l'avevo provato prima e poi non l'ho spento. No, nell'altro canale non lo faceva perché non era sintonizzato sul 10, non va. Non è possibile, già a me mi va a venire l'ansia. Cazzo già, io volevo suggerirlo ma ho detto non è possibile che abbia fatto un sbaglio del genere. Vai Massimiliano, buonasera a tutti, ero in ascolto. Che 3009 è nascosto, Marco, non si vede, quindi non sono riuscito a fare. La radio è salenta a metà, così è. Adesso salenta, lo posso mettere anche a manettone, non fischiare, se a manettone, guarda. Non ci credo, non ci credo già, tu vuoi sparato qua. Bocciato l'esame. No, ma la cosa mia è, cioè, no, non è possibile. Ma come fa? Sul 10 fischi e sugli altri canali no. E non ci ho pensato neanche io. Non ci ho pensato neanche io. No, bella radio Gianni. Ma mi sembra strano perché qua io l'ho provata, la conosco quella radio, quindi è una canonata. Va benissimo. Se metti la metà, non la mettere a manetta, appena più di metà anche la puoi mettere in saletta. Guarda, così va bene. Ehi, una bomba. Certo, c'è una radio allucinante, cazzo. Ma un bel posto, vedi. Marco. Condor, lasciatelo cucinare a Marco. Già basta quello che stiamo dicendo noi. Oh, Gianni mio, cos'aggio di fai un teco. Cosa Marco? E tu della Veron qualche cosa sai? Come antenna? Avessi visto qualche furto? No, non ha risposto già, sicuramente ci ha allontanato. Fuga radio. Ma è bella la Veron. Le cose sono belle, bisogna dirle, è una bella radio, ma io non avevo dubbi perché quella radio io la conosco e qualsiasi microfono le metti, e se a quella radio col tarli più 3 va bene anche con tutti i microfoni, anche con l'MB più 5 va bene quella radio. Comunque Massimiliano, se ne va bene il mio orometro, se ne va bene, perché deve uscire con 30 watt questa radio qua, e arriva giusto, 30 watt li dà pieni pieni. 30 watt di cosa? In AM, vabbè, io non c'ho pieni pieni, quindi da 30 a picchi di 50. Ah, ecco, è vero. Ma aspetta, io il PEP ce l'ho però, capito? E te l'ho dimostrato. Ah, se ce l'hai anche tu nel video che ti ho fatto. Ehi, lo so, ma se tu vai a vedere però quello che dice la casa, di data, io sono andato a vedere il... va benissimo, per carità, non è che siano quei 20 watt o 10 watt in più, però ho letto, io sono andato a informarmi, sono andato a vedere, eccetera, per vedere come usciva di watt, eccetera, eccetera, e c'è scritto che praticamente in AM sono 30 watt in AM, e poi in barra laterale non so se ne dia 100. Passa ai 100, fidati di me, con la T230 e la Kenwood in scala 200 modulati ne dava più di 150. Vabbè, comunque la grande radio, non dico che il contrario, dai. Ma non sai perché Massimiliano, l'ho messo il 3009 sopra la stazione Intec, siccome l'altro 3009 me l'ho venduto, l'altro 3009, me lo sono preso nuovo, capito? Non ce l'ho più quello di un giro, ce l'ho nuovo proprio di zecca, l'ho comprato, mi è arrivato 3 giorni fa. E fatto sta che l'ho messo sopra la stazione base ed è nascosto, non si vede, se non ti corri chi non lo vedi. Infatti io quello che mi sorgeva il dubbio già, cioè negli altri canali non lo faceva e nei 10 lo fa, cioè lo devo tenere così, invece ma com'è non ti gribato qui quell'altra radio? Oh, è sorda anche il 3009 o diversa già? Ehi là! Cosa qua? Anche quella che hai comprato nuova è lo stesso. stesso soda come radio. No, c'ha canali in più, eccetera, eccetera. È uguale come estetica, ma c'ha 230 canali. 240 canali preso. No, no, volevo sapere se lo smitter è avaro come tutti i 3009, oppure se hai provato, se è preciso. Eccole qua! Sono rientrato! Ciao Santiago Lope, buongiorno, buonasera! Ecco qui, Sagoso! Cazzo, a me mi date Santiago Lope, figurati! No, ma quanto è arrivato 9.30 qua, solitamente? Questo qui non è poco, è troppo il segnale, vabbè che mi posso regolare, perché tu che arrivi 9.30, arrivi 9 anche tu! Avanti! Adios! Abbastanza bene, la radio presente, già si sente bene, ciao, buonasera anche a te. Dai, ho visto l'apparecchio nuovo, infatti ti ho fatto quella domandina, ci ho tentato ma non è andata. Sopra la QSL, beh. Ciao Claudio, ma quella foto che mi ha dato il babbo, quella lì qual è? Quella radio gliel'ho dato io, quella decametrica. Chiodo arrugginito. Eia, Alessio, come ti arrivo al muro? Se ho fatto una piccola modifica, com'è? Negativo staccato. Ma vai, che baracchino stai usando tu? Arrivo 9.5, sicuramente un pochettino, perché qua ho aumentato parecchio, e qua tu sei 7, non ci siamo quel segnale, 7 a picchi di 8, dai. No, aspetta Claudio, allora Anto ti sta dicendo che praticamente è così come stai dicendo lui, perché quando tu usi il baracchino, l'altro baracchino, quello dove c'hai il lineare attaccato, la potenza è più alta di quello che stai usando adesso, perché lì stai usando 10 watt mi sembra, quindi non c'entra niente se poi magari c'hai picchi di modulazione più alti, però la portante è sempre a 10 watt, capito? Mentre l'altra, che usi il 747 attaccato, la potenza della portante è di 50-80 watt, quindi è chiaro che sale il segnale, questo ti sta dicendomi. No, mi ha dato 9.5, mi ha dato l'altro giorno con questo, ma non era quel baracchino, era l'altro, era. Non ci siamo quei segnali, no. Vabbè, fatemi rispondere a me, va, che saluto a chiodo e io mi vado a allontanare, va, ok? Ci sentiamo dopo al limite, se coincida. Chiodo arrugginito. Quando ti arrivo io di segnale, che non ti ho capito bene. uno di passaggio, guarda bene, adesso ti faccio questo qua, guarda quanto ti sto arrivando. Aspetta, mi ha segnali. Aumenti di due. Dai raga, vabbè, comunque, boh, non so. Quanto segnale è Claudio, sempre 9 più 20. Il mio è sempre 9 più 30, io sempre col Galaxy Saturn. Potenza 10 watt di portante bianca, quasi 15 modulati. Dai, anch'io mi allontano. Saluto Massimiliano Bulldozer, Antonio Bombolo, Luca Flipper se ancora in ascolto. A te Gianni, vai a portare il cane che sono le 8 e un quarto. Claudia, ci aggiorniamo dopo, anch'io mi devo allontanare, devo passare ai fornelli, dai, che devo preparare la carne. Ci sentiamo dopo se ci siete, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, ciao, vado anch'io a portare il cane, dai. Una cosa strana che arrivo così in basso, con tutta la data. Già, non lo so, non lo so. Non lo so, cioè, ci aggiorniamo dopo ragazzi, buona cena a tutti, Antonio e compagni, ci aggiorniamo dopo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Okay. Oh già, quasi 9 più 30, cioè non ti fare problemi, qua il tuo segnale, 9 più 30. E guarda adesso, guarda quanto è, e guarda adesso. 9.20, 9.30, sempre come al solito. Hola, eccomi qua, sono col baracchino, sono. Prova a chiedere a Claudio quanto sei sempre col tuo segnale, non cambia niente, quello che ti ho dato col K. Però io K adesso non ne ho più, non vi posso dare i segnali solo col Galaxy, che è preciso, l'ho allineato, ho fatto lo stesso allineamento del K, io K adesso non ne ho più, perché 4.30 è al centro assistenza e 140 è partito stamattina, quindi K non ve ne più, adesso c'è solo K di Rogero. K, Claudio, guarda come ti arriva Muros. K, c'è stato il break, avanti il break. Bottega. Ciao Antonio, ciao Claudio, Gianni mi pare. Claudio, tu sei 9+5, con attacchi è il segnale più che ottimo, comunque sei capibile. Vedi un po' come da te il segnale mio, Marco da questa parte. Inteso hai Anto, 50 50, aspetta, gli facciamo il passaggio, Claudio, così si rende più conto, così 50, così 3,5, così 3,5, così 50, si vede la differenza? Tappa. Inteso, hai entrato, tu attaccato, io 3,5, liscio. Ah, Marco, ma che paragoni mi si vende? A volte sei stato appena appena bianchità, ti avrei fatto il culo, cioè. Cioè, è un paragone che non mi puoi fare, cioè, io sono dentro un pozzo, sono me. In prevalenza sto arrivando più forte io che te. Ah, tu ci mancherebbe. È come la differenza tra me e Sparviero, mi. È questione di altezza, è tutto a scale, capito? Dalla parte più bassa alla parte più alta. È tutto lì, dai. Funziona ancora tutto qua. Funziona, funziona. Vai Claudio, Gianni c'è ancora? O è andato giù a portare il cane? Probabilmente c'è ancora. Probabilmente è andato giù a portare il cane. Ma poi il problema è che io, cioè, ma vieni a casa, domenica, vieni a casa, ti aspetto qua in piazza con la Mariane, e ti posso vedere dove abito io, e mi dai ragione, vieni a casa, e ti faccio vedere dove abito io, ti faccio vedere, giusto per capire come io ho l'antenna e che in che condizioni sono, e ti faccio vedere, allora tu scendi, dove c'è la palestra, scendi, vai in piazza con la Maria, là come il cappuccino che fermi di a San Pietro, lì c'è la palestra, tu scendi lì e tu vedi dove sono io, poi mi darai ragione, mi darai. Cioè sei molto infossato, ma per caso più basso di cosa, del profeta? Il profeta è libero, io non sono libero. Ah vabbè, no, allora ho capito, capito. No, credo che comunque fosse un palazzo alto, una cosa del genere, un palazzo abbastanza con la visuale ottica libera, no, tu, finito. Claudio, riprendi. Io ti sento qua. Sempre io. E soprattutto c'è la colpa anche un pochettino la mia, cioè non l'ho voluta neanche sollevare. Perché se avessi almeno, cioè è alta 2 metri dal tetto, più o meno. Se avessi almeno, cosa ne so, 4, 5, 6 metri di capo, sono sicuro che cambia completamente la storia pure. Cioè, io in prevalenza sto scendo anche più forte di molti. Di molti che hanno più posizione di me e più cose, io in prevalenza, sto scendo molto più forte. È che se ero stato in su, in piazza Colonna Mariane, in quel palazzo alto, e allora l'avessi intesi di matracchi, non ti preoccupare. Allora sì che l'avessi sentito un segnale forte, veramente. Cioè, in prevalenza per come sono io, qua, anche troppo forte sto uscendo. Ehi Anto, ma da poco hai fatto una miglioria, da poco poco? Sì, ho cambiato il capo. Cos'è messo, quello grosso, oppure... H155. Ah, come, Isella! Beh, Luca. Eia, bello, bello quello. Quello è sottile e ha le stesse caratteristiche del 213 come perdita. C'ha la calza migliore, c'ha anche l'alluminio, foglio alluminio, quindi migliore come schermatura. Forse tiene anche più watt, forse, non lo so, dipende, quello di diametro del conduttore, penso comunque rimanga quello del centrale. Vai Luca! Pronto! Eia! Aspetta che devo riprendere Luca. Avanti no! Ecco per dire. Vabbè. Oh, Anto, ti stavo dicendo, ma tu lo sai dove è Muros? Lo sai da dove sei tu ad arrivare a Muros? Che tutti quelli di Sassari a Muros arrivano bassi. Di cosa ti gira mentendi? Lascia perdere a me la mia posizione. Ma arrivare da dove sei tu a Muros e stai arrivando bene, è proprio come hai detto tu, rispetto ad altri, arrivi molto ma molto bene. Ma appunto Claudio, ma appunto. Tu vieni qua, domenica fatti un giro, se mi diamo un caffè, vieni qua e ti posso vedere io un disabbo. Cioè, io rispetto agli altri, non è che sto facendo bene, no? Di più, ma di più anche, non posso pretendere molto. Cioè, io poco poco ero stato su, dove c'è il Bruno, la pizzeria, in quel capo di palazzo. La storia era cambiata, ma non di poco, no? Ma di molto. Ma non credo con Muros, Santo, non credo con Muros, capito? Non credo. Per Muros devi essere diretto, Santo, c'è scala di ciocca, c'è la collinetta delle gallerie, non è facile arrivare a Muros, Santo, lascia perdere. Tutti quelli che siete dentro Sassari, i segnali sono quelli per Muros, a meno che non usi potenza, ma non esiste, è dall'altra parte, devi scavalcare. Dove siete voi? Dovete scavalcare tutta la città. Io no, perché sono davanti e quindi sono... praticamente non ho ostacoli, ma è difficile Anto, stai andando benissimo. Sì, della Cali ti si vende le segmentali, ti la giro piegato, non te ne va segmentali, che vai benissimo, non bene, no? Qua per l'antenna che hai e per dove sei messo, stai arrivando quasi 9 più 30, hai iniziato da 9 più 10 e sei già quasi col segnale di Marco Condor, ma di cosa vuoi Anto? Ma appunto, non mi posso lamentare, non mi posso lamentare, ti giuro, ma non mi posso lamentare, sono contentissimo, però dico, ma Marco mi ha fatto un paragone di giochi, grazie, ed è avvezzo, io no, cioè veramente no, cioè, ho difficoltà anche, cioè, a poco a poco ci arrivo, però non è che abbia tutto questo grande segnale, no? Cioè, arrivo bene anche a Porto Torres, però cioè, io non mi posso lamentare, non mi posso lamentare, io per come sto uscendo, cioè se mi scendi proprio a livelli di gente che ha la Mantova e non arriva forte come me. Vai Marco. Ehi, mi ha detto che ha migliorato il cavo anche Antonio. Ehi, ma lui è 9 più 30, liscio attaccato, per curiosità. Ha spesso un telefono, riprendi Anto. Vabbè, sarà attaccato da guarda, anche se te lo stacco cosa giamma. Sarà 9,25, sarà. È così, però io sto andando. Non mi posso lamentare, io sto andando cavolo. Cioè, tanti altri non vanno come me. Saluta a babbo e mamma, già ci sentiamo. Ehi AK, dai, ci sentiamo! Ci sentiamo! Ciao, chiodo Arrugginito, ci sentiamo le prossime, dai! Certo, sì, ho letto il coso. No, non la conosco la zona lì, Anto, ecco perché. scusa, non te la prendere mica sul personale, però c'era troppa differenza, non capivo perché, vabbè. Comunque io non ce l'ho portata l'ottica Moore, assolutamente. Io c'ho tutta la collinetta lì dove Claudio, Sparviero, e poi è a scendere, tutto più in basso, capito, da scala di gioco. Quindi otticamente io sono in realtà chiuso, poi vabbè, il segnale viaggia. Sì, ma sei ammesso, io no. Guarda, io forse a portata ottica c'ho stintino, sì, stintino è a portata ottica, non vedi nessuno, per fare proprio. Alghero, diciamo, l'orizzonte è libero, a parte con le montagne vicino Alghero, tipo Monte d'Oglia, capito? No, ma infatti ce n'è davanti lì. Sono prove così del cacchio, infatti sono prove del cacchio quello che faccio io, ci mancherebbe che te la prendi, assolutamente. Perché secondo te Alghero non mi hanno sentito? Sì, c'è l'altro giorno, è giunto Guido, mi ha detto, parla anche qua a Sassari, mi ha detto, ti ho sentito l'Alghero, io però non lo sentivo, però l'Alghero a me mi sentiva. E io so che ho parlato con l'Alghero, con un radioamatore, da poco, in FM eravamo, però sono arrivato lo stesso, perché io queste volte con la doccia un pochettino che cosa. E sono arrivato lo stesso Alghero, ci ho parlato lo stesso. Cioè, mi posso ottenere soddisfattissimo, mi posso ottenere. Certo, se l'avrei alzato un paio di metri in più avrei fatto già qualcosa di meglio. Però non mi posso lamentare, ma assolutamente. Eia, Luca c'era pure. Eia, Luca fa la battuta e sparisce. No, sono al telefono, raga. Eia. Hai capito Marco, io non mi posso lamentare, ma assolutamente, no, non posso dire niente, non posso dire, assolutamente, cioè sono felicissimo, per come sto uscendo sono felicissimo che, cioè, molti cani la manto, ma noi ce ne fossi come te meme. La più invidiabile è quella di Claudio, Sparviero. Qua mi, cioè, è come è lo stesso rapporto tra me e lui. Lui mi annienta, lui aspetta, com'era quel paese dove c'è quel CB singolo che ogni tanto chiama, cos'era? No, Orzieri, che paese era? Porca miseria, non mi viene. Orizzano, mi pare. Ma dico una cosa, ti dico. Io ti faccio una scommessa a te, prendo la mia antenna, la metto nel palazzo di, non diciamo niente, la metto nel palazzo dove abita Claudio, scommetto che non se ne accorge nessuno a Sassari, non se ne accorge nessuno, io ti scommetto quello che vuoi, nella stessa altezza. È probabile, guarda che dalla mezz'onda alla 5 ottavi c'è un decibel e mezzo solo me, decibel. Non Santiago, è decibel, è una frazione di Santiago, infatti in teoria non dovresti vedere differenze sostanziali, a meno che con Smith e Buoni. Sai che non si avvisa nessuno e ci posso scommettere quello che vuoi, ci posso scommettere. Io della bocca, la mia stessa testa di la mantova che c'ha lui, nello stesso palo. Io sono convinto che lui ti fa... Con il commutatore fa la cosa e non se ne accorge nessuno, non se ne accorge. Fregatene. Ma tu hai sempre la mezz'onda, sì? Quella c'è. Quella migliore, quella che prima ne avevi, il nuovo modello, poi avevi messo il vecchio modello e mi pare che andasse meglio, non mi ricordo se a stazionaria o a resa, comunque, eccetera. Adesso te ne dico una, per esempio, andando a Porto Torres, dove c'è l'ancora, adesso il momento è caduto nel mare, lì è sopra Balai. E parlavano da Sassari, no? E c'era una differenza enorme tra una stazione e l'altra, enorme, uno arrivava, che ne so, 9, 1,7, 1,5, 1,0 arrivava addirittura. Zero, eppure erano tutte stazioni di Sassari, tu figurati la differenza da 0 a 9, più tutti i segnali che c'erano in mezzo, no? Te l'ho detto, chi 7, chi 5, chi 0, chi 9. È normale. Io a Porto d'Oro già arrivo io, non ti preoccupare. E anche bene. Non avrò questi grandi segnali, ma a Platamona, a Porto Torre, città quella zona già. già assorso, diamo intendimento a te. Anzi, a Porto Torres è pure meglio, Anto, perché Platamona, la rotonda, c'ha quella collinetta maledetta che fa da schermo. Invece a Porto Torres, se ti metti soprattutto zona Balai, via Balai, è un bijou. Bene. Ma non mi sente nessuno invece, buh. Nei, cura a te, tu sei molto più alto di me. Ti intendo, già. Io? Cazzo, con cazzo non fosso, aspetta che c'è un cicolato da palazzi. Ma già arrivando a fondo scala, in occhi. Molto più alta di me. Io qua c'ho tutta pronizia da salire, terrificante, scarmatissimo. Oh, differenza vostra. Mamma mia, migliore, però purtroppo non rende, capito, perché sono un fosso. Aiuto, ciao Marco, ciao Antonio, ci sentiamo dopo, Antonio, che vado a mangiare, ciao ciao. Buona cena. Ciao, buona cena. Conta tu, Luca, che ci liscio, tu lineare non ne tratti, anche volendo di ex e non solo. No, questo sono 5 watt dalla radio, non la giuriare io. Mettendolo. Comunque c'è una zona buona quella, dai, non è mica cattiva. Ma sei proprio casetta in Canada, quindi un po' più in basso, oppure dove c'è la chiesa? Via Sulcis, angolo dove c'è la chiesa? Io sono vicino alla scuola numero 9, non è che c'ho niente da nascondere. I bollettini li ho tutti pagati, se non si paga più, nel caso che vogliono venire a controllarmi, questi buoni a faccia in culo. Io adesso che libero, manco più controlli faranno, non credo. Vabbè, comunque. Se abitavo con quel palazzo che c'è di fronte a me, allora forse qualcosa avrebbe sparato molto molto di più. Purtroppo non abito lì, vabbè. Eppure non è che si fa queste gare, io dove arrivo, arrivo, dove arrivo, non me la futti nulla. Marco, questa Venom, la conosci tu? Sì, è una 5 ottavi leggermente raccorciata, 3 radialini corti, molto corti, non lo so, comunque ce li ha. Dovrebbe essere intorno ai 5,80 m. Sembra una versione raccorciata di questa. Quello che mi lascia un po' così sono i radiali. Forse è progettata così apposta. Non lo so io. Fatto sta che i miei radiali sono a 1,30 m. E lì sono molto ma molto corti. Mi chiedo quanto, cioè, se il piano di massa sia efficiente o no. Ho sentito che la stava provando il califfo dal terrazzino, mi pare, no? Ce l'ho, me l'ha mandata. Che qua dice 26,30, il piano di massa almeno 1,50 o 1,60 di radiale deve avere. Non capisco il progetto che abbia questa antenna. Poi sai cos'è? Allora, mentre da me vedi la bobina, la base, in quel tubicino trasparente, no? Nella Energy, lì praticamente il tubicino è di metallo. Non vedi se c'è una bobina o se c'è qualche sistema di adattamento più gonfio, tipo pacottiglie di resistenze. Comunque in teoria dovrebbe andare bene, in teoria. Poi se tu leggi internet c'è chi l'ha lodata e c'è chi ha detto che è sotto. Comunque che rende meno. Praticamente tutti hanno detto che è buona e tutti hanno detto che è cattiva. Alla fine la ragione sta nel mezzo. Vabbè, ma l'ha mandata a Franco, volevo capire se la conoscevi. Vabbè, dai, continuate, che io adesso non li prendo più, li prendo dopo, magari se ci sento ci facciamo l'occhietto. Ciao ciao. Eia. Era quella che doveva piazzare Coso. Fabio Master doveva piazzare quella sul palazzo, poi non è più entrato e non si sono potute fare prove sul campo. Ma adesso se la piazza al califfo vediamo un po', ce l'aveva nel buongiorno e mi arrivava a 9:10 a me, capito, a casa sua, io sono via metà perfettamente, 9 più 10 arrivava qua, quindi un ottimo segnale, adesso vediamo quando la piazza su. Vabbè, se aperta su cambia. Che ne so, una mantova. Bisogna provare, che ne so, una mantova sullo stesso palo. Togliere la mantova e mettere quella e capire se rende pari a, per esempio, alla mantova o di quanto inferiore, per fare una prova affidabile. Sempre usando lo stesso cavo, stessi watt, eccetera. Vabbè, vediamo, cosa avvicinato? Ho detto che bisognerebbe provarla, cioè poi se lui ce l'ha va bene, non c'è problema. No, vabbè, lui ce l'aveva la montata e la montata nel poggio. Poi stasera abbiamo fatto delle prove, erano 9 più 10, un ultimo segnale per essere nel poggiolo così appoggiata, capito? Quindi suppongo che messa sul tetto abbia una resa molto più alta, tutto qua. Sentite casino il fon che l'aria sta sciogliendo i capelli. Dai, vabbè, vado che è quasi pronto. Ciao Antonio, ciao Marco, a più tardi se coincide. Vai Marco lì. Manco 2 minuti, cazzo, devo scendere giù. Roba di vento. Claudio, ti volevo chiedere, ma il poggiolo è molto più in basso rispetto al tetto? Tipo a che piano è rispetto, già hai capito? Due piani in meno solo. Due piani in meno possono fare la differenza, se ci aggiungi il palo rispetto al tetto, no? Fuori palo, anche poco, neanche 2-3 metri, dovrebbe sparare forte. Comunque, conta che pur sempre una 5 ottavi, sarà leggermente raccorciata, però, e la danno per 5 ottavi, nasce come 5 ottavi e si spera che abbia una resa da 5 ottavi. Sto dicendo, io ho fatto la prova, siccome se lo vai al poggio lui posso farcene un altro, e poi c'è il tetto, quindi caspita, differenza c'è, anche perché è chiuso. Il poggio lui ce l'ha, non l'autostrada, ce l'ha praticamente interno a un parcheggio, quindi è molto chiuso, capito? Ma tu conta che Franco con l'antenna con la mantova sul tetto qua non ce n'era per nessuno, ancora più forte di te arriva, ma tu sei 9 più 30, Il segnale più alto che ho dalla mia zona praticamente c'è Roberto, Antonello Pomponio, Fabrizio, quando entra poi il segnale più alto è il tuo, liscio 9 più 30, sei assieme a Luca Flipper tu, più o meno quel segnale, gli altri sono tutti 9 più 20, quindi presumo che ci abbia un bel segnale, infatti ho detto se la deve piazzare. Andrò sicuramente a dare una mano e si piazza in settimana. Voglio vedere, perché per quella cifra ne prendo anche una io e mi alimento e la lascio diretta sui baracchini, mentre sul 4.30 lascio la mantova, capito? Va bene, Marcoli, dai, vado a cenare. Ci sentiamo, ciao. Sì, volevo provarla anch'io. Prenderla, provarla, poi usi i futuri, rivenderla, poi ho detto magari me lo faccio qua. Poi ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, con la magazzata, ma la tengo il buco. Dai, ciao ciao ciao. Vai Luca. Antonio, è sceso giù, ho sentito. Eccomi. Ehi Antonio. Antonio, ti ricordi che mi avevi parlato della Venom, che volevi prendere quella, non so se a mezz'ora o 5 ottavi. Su Amazon dopo le feste è sparita, diceva non disponibile, adesso controllo se l'hanno rimessa. E c'era sia la 5 ottavi che la mezz'onda. Ma comunque mi stavano dicendo tutti che è buona, non lo so. Non lo so, mi chiedo così poco rispetto alla Sirio, anche alla Sirio GPE, GPS che è un po' più corta del dovuto, i radiali passi tutto il resto, i radiali sono ambigui, beh ambigui, boh. Vabbè, poi non vuol dire nulla, magari hanno fatto qualche accorgimento, è nata per lavorare con quei radiali, boh. Ma secondo me va bene comunque, secondo me. Me, Amazon, Sigma Venom 5 ottavi, al momento non disponibile, porca miseria, non l'hanno più portata. Erano tutte antenne della Sigma Eurocom. Non c'è più nella mezz'onda, le 5 ottavi, né quelle per l'HF, sono sparito. Passate le feste, si sono mangiati di tutto. Se l'hanno presa molti, sicuramente va bene. Sicuramente l'antenna che va bene. Comunque dai bece, però il venditore, porca miseria, spesso è quello inglese. Adesso con la storia della dogana. L'Inghilterra è uscita dall'Europa e non so se abbiamo ripristinato la dogana, penso di sì comunque. Ma la Sigma anche fine non ha mai fatto cagate, ha sempre fatto antenne buone, non penso che sia male anche quella lì, no? Ma la Sigma era italiana, la Sigma della Mantova, la Sigma Eurocom è inglese, ha sempre fatto queste Venom, un'antenne da scanner, un'antenne riceventi, tutta la roba lì. Credo che sia una cosa proprio diversa dalla Sigma Italia, capito? Non te lo so dire, ma se lo mettono nei loro titi, cioè, sarà buono anche qua. Vabbè, se tu leggi l'inglese, se tu vai a leggere l'inglese sui forum, per loro meglio di quella non ce n'è. Gli italiani si vantano la Sigma alla Mantova, no? Italiana. Gli americani si vantano la... quella americana, come si chiama? Quella in fibra di vetro, l'IMAX 2000. Ogni paese si vanta la sua antenna, capito, di produzione nazionale. Però credo che i migliori delle Mantova, la 1, la Turbo, la 5... Questa Venom non l'abbiamo mai comprata, quindi non te lo posso dire. Pensa che io ci avevo il terrazzo di nonno disponibile per fare le prove, anche comparative, cioè un paletto mobile, no? Gliene monti una, chiedi il segnale a tutti, monti l'altra per fare i confronti, però no, vabbè. Ma io penso che vadano bene comunque. Marco? Ehi, stavo guardando eBay. Sì, Venom 5 ottavi. Porca miseria, vediamo se c'è dall'Italia. 57 euro più 7,90. Venditore Napoli. Mamma mia, aspetta. Ah, 1000 volt, vabbè, questo è abbastanza affidabile. Sì, la vendono da Napoli comunque. Costa un po' di più che non da Amazon, vabbè. Quanto la Ringo costa? Eia, sì, quanto appena di più, vabbè. C'ha le fascette, vabbè, da provare, perché io l'avrei voluta avere sotto mano, fare le prove mie. Vabbè, 2,5 kg, sì, è leggera come questa leggera. Break. Avanti il break. Ciao Fran. Sì, ciao Antonio, ciao Marco. Marco, mi dai un controllo che sto provando un apparato? Circa 9,15 radio 5. Ultimo per te Antonio. Prova a vedere. 5-4-3-2-1-0. Mi sta anche scendendo il cielo qua, sta piovendo forte. C'è quasi 9,20. Cioè quando piove funziona anche meglio. Sono esattamente con un watt metro proprio professionale. Un watt. È micidiale. Sì. È così. Io avevo fatto le prove, forse ero riuscito ad arrivare a, non mi ricordo se erano 100 milliwatt o 200. E quindi mi sentivano in tutta sassa. E vabbè. E vabbè, io vado tutta sassa, però forse per quello. Forse per quello che va lì. Adesso lo porto un po' più su e un attimino. E poi io non ho mai capito Gianfranco. Allora, io Montero ce l'ho vista, no? Si vede la collina, certo. Ma guardando da Sassari verso Monte Oro, tu risulti al centro di Monte Oro, più a sinistra, e Monte Oro più a destra, grosso modo. Ecco, adesso ho aumentato un pochino. Allora, penso se 4 watt. Allora, tu guarda verso Monte Oro dalla tua zona. Prendi come riferimento Monte Oro, io sono a sinistra, circa un chilometro a sinistra. Cavolo, adesso sei, come è aumentato, sei oltre 9,20. Per te Marco è aumentato qualcosa, ma mi interessa più che altro la radio, se è distorta o se va bene, ma penso che vada bene perché non è questa grande potenza. Poi il microfono è normale. Sì, 920 pieno per questo misero smitter. Ma sento ciabotto fuori, ma sta piovendo. Sta scendendo l'aria, Marco, te l'ho detto poco fa. Ah, perché qua sentivo il vento, però non sentivo pioggia, credo che sia pioggia questa. E allora è arrivato anche qua, dai. È arrivata, sì. Niente. Aspetta che abbasso. Abbastanza, non mi piace uscire, dato che ci sono state di fronte, è inutile stare con questa potenza. No, tutta manetta mettete, tutta manetta. Bisogna scaldare il cavo, l'antenna, bisogna asciugare l'antenna, più watt ci sono meglio è, tipo resistenza, minchia. E io come ti arrivo lì, Marco, ma no Marco, Gianfranco, lì bene ti arrivo lì a Monteora. Sì, aspetta, che devo guardare, un attimino, e te lo dico io quando a parlare perché... C'è lo smith talmente piccolo che lo devo ingrandire. Addirittura. Che smith è? No, diciamo la verità, adesso è grande, solo che essendo un apparecchio con lo schermo, se lo voglio ingrandire devo premere dei pulsanti, ogni tanto me ne dimentico. Quindi adesso ho ingrandito anche il numero, che è così, vedo il canale dove sono. E vedo anche il tutto. Ok, fammi vedere. Ho per bacco. C'è un po' di stazionaria. Sta l'acqua che fa. Vedo, boh, non ci capisco più una massa di questa cosa. E vabbè, sotto il 2. Dal 2 in poi passaggi corti, dal 3 in poi meglio modulare. Tanto vieni avanti adesso che ci vedo. 1, 2, 3, prova. Conta anche fino a 4, dai. 1, 2, 3, prova. Guarda a vedere com'è. Va bene la modulazione. Perfetto, non toccare niente. Sì, 9, 9,25. Va bene. Vediamo, ma Marco non l'ho guardato. Marco, prova tu. Eccomi, con 3,5. No, sempre 4, ma il filtro me ne ruba mezzo. 1, 2, 3. Ormai. Quindi, 6, 9, 9, 20, modulato, se non moduli 6, 9, 18, al di sotto del 9, 20. Antonio arriva molto più forte. Visto, Antonio, e lì mi crepi tu. Oh, c'è un quadrema elettrico terrificante qua, tipico dell'elettricità atmosferica. Aspetta, metto la noise blanker. Qua un pochino di quadrema, ma non più di tanto. Anto, ma tu sei liscio adesso? Sono con il baracchino, cioè con 10 watt. Sai perché te lo chiedo? Perché io mi ricordo che liscio eri poco meno di 9,25, adesso sei 9,25 spaccato qua. Quindi probabilmente, forse il cavo ha migliorato anche la resa. Capito? È appena appena più forte il segnale, benché qua sia 10 mm che la differenza, capito? Lo so perfettamente che è più forte, adesso va molto molto meglio. Se prima ero 9,25, cioè 9,20 da Claudio, adesso arrivo quasi 9,30, la cosa ha cambiato. E così avevano consigliato a Gianni di fare, anziché il 58 che è anche poco schermato, no? Per evitare interferenze subite o ricevute, o date o ricevute. Quello è una via di mezzo buona perché non è né grosso come il 213, è sottile ma c'è una buona resa, poca perdita, purché originale, Belden, non marca Cincillà. No, questo è proprio l'originale, questo H550, così era. essere quello proprio con la marca che hai detto tu. 155, è quello grigio. Mamma mia, è la Bulotto di Corremme, porca miseria, meno male che siete fotti. No, questo è nero, Nero, non grigio scuro, no? Nero, nero. Ma forse lo fanno anche nero. Oh, Gianfra, io non... Io l'ho conosciuto grigio sempre. Sia online, sia da Fusaro avevano quello grigio. Ma che cosa, il cavo? 155. Eia. No, io ho visto sempre grigio, lo conosco sempre grigio. Nero non l'ho... Boh, sarà qualche imitazione strana. E niente, boh, mi spiego questo stazionario. Cioè, ma adesso... Ma io con cosa ti avevo sto trasmettendo? Un attimino, che non vedo più il coso qua. Cappa, no, questo no, è originale. So che esiste sia nero che così, no, chi si dice su mono. La persona che me l'ha dato... Non è compra immondezza, non è di chi su contraffatto, esiste sia grigio che quello nero, informati. Marco! Ehi, porca miseria, volevo farti vedere il rumoraccio che fa qua il QRM, ma è una cosa terrificante, è come una specie di grido, di stridio, di stridore, come si può dire? No, qua no, ma qua va bene. Sì, adesso ha smesso di colpo, di botto, come se avesse... caricato, ma forse ha smesso di piovere pure, oppure ne è scesa l'antenna, no, c'è ancora, no, ne vara, no, e prima o poi ne è già ne vara, prima o poi è ancora nuovo il palo e nuova l'antenna, ma già ne vara, te lo dico io. Ma così, guarda, se è buono il palo e tutte cose, può starci anche 30 anni, non scenderà mai, e poi quelle energie sono di costruzione buona, me. Anto, è roba cinese, la Energy la vende anche la Sirio con un altro nome, la scatola generica, sulla scatola c'è scritto Ochantenne in tedesco, che vuol dire antenna alla base, e poi la Midland ci mette l'adesivo suo, e credo che esista anche di altre marche al di fuori del mercato italiano, cioè la Cina le fa e poi ogni commerciante ci mette la targhettina e dice Midland Energy oppure Sirio o GPS o GPE, no, cioè sia Medonda che 58. Poi ti dà qualche cosa in più, ti dà quelle boccole di plastica per non far entrare acqua che poi entra lo stesso, però devo dire che non è un'antenna di fabbricazione italiana. La Sigma era proprio fatta in Italia, la Firenze 2 era proprio fabbricata in Italia, ma questa è roba... Sì, andanti, andanti, eppure a qualcuno ha avuto problemi, un CB aveva la mezz'onda, praticamente lì si è interrotta perché c'è la saldatura, c'è una lamella sottile che va allo stilo o alla bobina, non mi ricordo. Come è partito quella, boh, non serviva più l'antenna. La LEM non è italiana. LEM, anche LEM è italiana, sì, sì. Per esempio c'era la Super LEM, bella. Super LEM aveva, era tipo Mantova, non mi ricordo i radiali quanti erano, se erano 4, se erano 8, non me lo ricordo. Ne esiste una che ha 4 radiali che sono enormi, e poi ne esiste una che ne ha 16. Sono tornato. Gianfra, la Super LEM, te la ricordi? Era simile Mantova, una bella pezza di antenna. Ma era molto vecchia, oramai non c'è più. Adesso sono sceso a meno di 1,5. Sempre, guarda, io non so più come fare. Non so più come fare, questi PL che vendono, guarda, o non entra, o è senza filettatura. Poi così, ho preso da fuori, ho preso da fusato, ho preso... Io non so più che ha cazzato veramente portarmi. Cioè, da quasi due di stazionarie a meno di 1,5. Oh. Ma è la pioggia o il PL adesso? Infatti sento anche le scariche adesso. Abbiamo scarico e tutto. No. PL, PL.